Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ed eccoci qua, cari ascoltatori, in questo 15 giugno, mercoledì 15 giugno, sono le 8:20 primi, sempre tardi. Oscar Giannino anche oggi fino a venerdì. Saluta a distanza Alessandro Milan, lo saluta a nome di tutta la tribù dei nostri ascoltatori e dei suoi ascoltatori che ha fatto crescere nel tempo, perché sa, qualche giorno è in vacanza e quindi goditela tutta. Alino, allora, santi del giorno in questo 15 giugno: Sant'Amos, profeta, Sant'Esichio, Sant'Isfrido, San Landelino, San Lotario, San Bernardo Lamentone, che è proprio quello da cui prende il nome poi il passo del San Bernardo, perché è un valdostano del cavallo tra il IX e il X secolo e che appunto si dedicò tantissimo ai rifugi nelle montagne, sulle vallate, sui passi, quindi un santo che è patrono appunto degli alpinisti. Da questo punto di vista è un santo che a me sta molto simpatico, a dire la verità. E anche un San Vito martire, di cui in realtà non si sa praticamente nulla, perché è un martire dei tempi di Diocleziano, che pare, dicono, nato in Sicilia, poi morto in Lucania, ma è in quanto santo adolescente incarcerato perché non voleva fare apostasia, pare che per questo, siccome guarisse i ragazzini affetti da malattie, di qui il famoso ballo di San Vito, che poi è l'epilessia nel sud, e quindi è diventato popolarissimo nei secoli questo San Vito adolescente che non voleva abdicare, rinunciare al cristianesimo, anche se poi in realtà non ne sappiamo nulla, quindi è una figura leggendaria, ma comunque oggi è San Vito. Nella giornata di oggi che cosa si festeggia? Tra le tante cose, la nascita della Croce Rossa Italiana nel 1864, poi per me importantissimo, nel 1215 viene firmata oggi la Magna Carta Libertatum del re Giovanni Senza Terra, che è il vero fondamento per chi è liberale, per dire a un re: guarda, tu non hai tutti i poteri, non puoi fare quello che vuoi se non chiedendo il permesso a noi. Certo, all'epoca erano i baroni, ma era il fondamento delle libertà limitate e non del potere assoluto. Allora, oggi di che cosa chiamiamo i nostri spettatori, i nostri ascoltatori, per dirci come la pensano all'800 24 00 24? Io vi faccio una domanda, in particolare questa domanda mi è venuta ascoltando lo scambio di opinioni che c'è stato ieri sera tra Di Battista dei 5 Stelle e Massimo Giannini. A Milano, siamo qui con Parisi e Sala. Esprimete qualche orientamento, restituite il favore al centrodestra oppure continuate a conservare questa vostra purezza che vi rende incontaminati e non compatibili con nessun'altra forza politica? Giannini, ma che ragionamento è? È una domanda, è una domanda, mi dia una risposta. Ma che appartengono a me i voti? No, allora come sentite, cari ascoltatori? C'è Di Battista 5 Stelle, è rimasto un po' infastidito dal tono con cui Massimo Giannini si rivolgeva a lui, e devo dire che si capiva che era infastidito anche a qualche ragione, perché secondo me Massimo Giannini dice: mi dia la risposta, è lecito che poi il politico ti possa dire: se non faccio l'apparentamento e lascio libero gli elettori, e perché poi gli elettori decidono come vogliono. Ma al di là dello scambio dei toni, mi interessa questo, cari ascoltatori: se per caso nel primo turno in città, dove non c'è un candidato al ballottaggio dei 5 Stelle, come è a Roma, dove la Raggi sembra ancora adesso avvantaggiata, dove a Torino, dove l'Appennino è in forte risalita, secondo tutti, rispetto al sindaco uscente Fassino del PD, ma dove invece non avete un candidato in ballottaggio, come capita a Milano, come capita a Bologna e così via, se vi va, ci telefonate e ci dite come vi regolerete. Non andrete a votare? Starete solo a guardare? Avete un'idea di chi sarà il vostro candidato da supportare in ballottaggio? Certo, il voto è personale, uguale, libero e segreto, ma questo è uno dei grandi interrogativi della tornata amministrativa. Quindi vi prego, dateci un contributo dicendo come vi comporterete. Ci sono alcuni, per esempio i radicali a Milano, come Cappato, che hanno scelto ufficialmente, e anche la Bonino su questa linea, hanno scelto Sala rispetto a Parisi. Lo hanno fatto, ripeto, con un vincolo ufficiale, e c'è anche un po' di imbarazzo, perché Cappato aveva presentato un esposto dicendo che Sala era incandidabile addirittura per via del fatto che si era dimesso tardi e male dall'incarico dell'Expo, però lo hanno fatto. Allora la domanda molto importante sull'esito di questi ballottaggi è capire invece come l'elettorato 5 Stelle si orienterà, e quindi la domanda che vi facciamo è: chiamate l'800 24 0024 e ditecelo, qualunque sia la vostra valutazione. I giornali di oggi, devo dire che hanno tre grandi direttrici nelle aperture, l'avete capito dalla rassegna stampa. Il primo è: si ritorna per l'ennesima volta a farvi una testa così, perché il governo ci tiene molto a questo, spiegandovi che sì, il governo vi consentirà per i nati dal 51 al 55 di andare in pensione prima del previsto, prima dei 66 anni e 7 mesi, potrete farlo con la prossima legge di stabilità. Ieri ennesimo incontro a Palazzo Chigi, nel quale però naturalmente si dirà, il governo ci tiene molto che i giornali titolino, non c'è una penalizzazione. No, però in realtà c'è sull'anticipo di pensione, i soldi li devono mettere le banche e voi pagherete le rate di ammortamento. E ancora adesso il governo non dice a quanto consisterà, cioè quanto prenderete in meno. Prenderete in meno, il governo fa solo scrivere che non c'è penalizzazione. In realtà c'è, perché dovrete pagare il fatto che i soldi vengono anticipati dalle banche. Ecco, in quanto consisterà questa penalizzazione, questo però il governo non ce lo dice, perché vuole solo che facciamo i titoli tutti i giorni dicendo che sì, il governo risolve il perpensionamento. Ok, questo è il primo filone di apertura dei giornali. C'è il secondo filone di apertura dei giornali, ovviamente, sul fenomeno del terrorismo per le due uccisioni di Parigi di ieri, e poi c'è chi fa eccezione rispetto a questo, tipo il giornale che naturalmente apre con l'operazione di Berlusconi da questo punto di vista. Allora, continuiamo nel nostro giro delle maggiori città in cui c'è il ballottaggio, e quindi oggi è il turno di Bologna, che sembra in teoria uno dei ballottaggi più tranquilli, nel senso che è uno di quelli su cui i quotidiani nazionali tornano meno. Lì la notizia è stata che il sindaco uscente Merola non ce l'ha fatta al primo turno, e quindi se la deve vedere al secondo turno con la candidata del centrodestra Bergonzoni. Il distacco è molto elevato, però attenzione, perché Bologna in passato ha riservato al ballottaggio anche grandi sorprese quando la sinistra si considerava padrona assoluta dell'esito elettorale, ricordate ai tempi di Guazzaloca. Per capire che cosa sta succedendo in questi primi 10 giorni che sono passati intanto dal primo turno elettorale, in vista del ballottaggio di domenica, è con noi il direttore di IPR Marketing, Antonio Noto. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti. Allora, l'interpretazione, questo è un istituto che si fa rilevazioni, sondaggi, studi di flusso elettorale, eccetera, eccetera. L'interpretazione che avete dato dell'esito elettorale di Bologna è un'interpretazione, secondo voi, alla luce anche delle serie storiche di Bologna e delle elezioni precedenti, aperta a un ballottaggio a sorpresa, cioè con la vittoria della Bergonzoni rispetto a Merola, oppure no? Possiamo fare solo un ragionamento. Ovviamente l'esito del risultato può essere influenzato solo ed esclusivamente dal comportamento elettorale dell'elettorato del Movimento 5 Stelle. Ecco. Perché è chiaro che se il confronto rimane tra Merola e la candidata del centrodestra, non c'è storia. Merola comunque è molto avanti e può vincere tranquillamente al ballottaggio. Però c'è quasi quel 20% del Movimento 5 Stelle, e quello conterà, perché se quello si dovesse sommare, ovviamente dico un'eresia adesso, no? Se questo si dovesse sommare al voto della candidata del centrodestra, è chiaro che invece il responso finale potrebbe essere diverso. Che cosa accadrà è difficile prevederlo se non ci sono sondaggi adesso. Possiamo però analizzare quello che è un po' il comportamento del voto dell'elettorato del Movimento 5 Stelle e dell'elettorato del centrodestra. Dal comportamento del voto si può comprendere forse che in realtà non tutto è così scontato come sembra. Noi abbiamo registrato, diciamo, nelle ultime elezioni dei comportamenti, tra virgolette, anomali, o comunque hanno una spiegazione politica, di flussi elettorali tra centrodestra e Movimento 5 Stelle. Nel senso, abbiamo visto quasi come se ci fosse, io direi, un'alleanza, diciamo, non so se di fatto, ma comunque strategica anti-Renzi, tra le opposizioni, quindi tra centrodestra e Movimento 5 Stelle. Perché dico questo? Perché abbiamo registrato che, confrontando per esempio i voti espressi alle europee, che è l'elezione, diciamo, più recente, soprattutto sì, in Emilia-Romagna, e i voti espressi appunto al primo turno al Consiglio Comunale, ma questo a Bologna, a Milano e anche nelle altre città, abbiamo registrato che una parte dell'elettorato di Forza Italia delle elezioni europee ha votato Movimento 5 Stelle, e anche una parte, come dire, di elettorato di centrodestra che alle europee votò Renzi, diciamo, questa parte ha votato Movimento 5 Stelle. Dall'altra parte è anche vero che una parte invece, una quota di elettorato che alle europee votò il Movimento 5 Stelle, in molte città al Consiglio Comunale ha votato candidati del centrodestra o Forza Italia a Milano o partiti del centrodestra. Ecco, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che si sta creando una sorta di flusso, una sorta di, diciamo, forse di patto di resistenza. Sì, tra anche se non dichiarato, ecco, ma praticato, sì, dagli elettori, ecco, per così dire. Ecco, molto spesso i voti al Movimento 5 Stelle sono voti di centrodestra parcheggiati al momento nel Movimento 5 Stelle, ma possono ridiventare immediatamente voti di centrodestra. Allora, aspetti un secondo, perché lei ci dà un tema fondamentale sul quale oggi, cari ascoltatori, non a caso trovate sia l'editoriale quella della Sera di Paolo Mieli, che è esattamente su questo punto. Ci ricorda quando nel 1993, per il ballottaggio a Roma, Berlusconi aprì la Seconda Repubblica centrodestra dicendo esplicitamente: io voterei per Fini, sdoganandolo. E Paolo Mieli dice: ma oggi c'è qualcosa di analogo esattamente sul punto di cui ci sta parlando Antonio Noto, direttore del PR Marketing, come decisivo a Bologna e non solo a Bologna, cioè sarà l'elettorato delle 5 Stelle, domanda di Giannini a Di Battista prima, pronto a scegliere il candidato anti-Renzi e anti-PD, perché questa è la chiave del risultato del voto. Trovate una riflessione generale di Paolo Mieli su questa chiave interpretativa su tutti i ballottaggi. Attenzione, cari ascoltatori, perché dall'altra parte, nel fronte PD, oggi Repubblica lancia una bomba, per così dire. Goffredo De Marchi sa tirare uno scoop, per così dire, rispetto a tutti gli altri giornali, che naturalmente oggi verrà smentito, ma che è scritto con dati circostanziati. E qual è questo scoop? Lo scoop è questo: pur di cacciare Renzi, sono pronto a votare anche la Raggi a Roma. Chi è che lo dice? Massimo D'Alema. E nell'articolo di Goffredo De Marchis è ricostruita tutta una serie di incontri preparatori, perché D'Alema dice: deve perdere, deve andare a casa, riprendiamoci il partito. Quindi, intanto, come vedete, anche sull'esito che sembra scontato del voto di Bologna, Antonio Noto, direttore di PR Marketing, ci ha dato una chiave che sobbolle con grande forza al di là dei temi e dei titoli che trovate sui giornali ufficiali del confronto tra candidati, perché sia la situazione del PD, sia dall'altra la scelta per l'elettorato italiano, ma dobbiamo dare una spallata, oppure, insomma, chi vota 5 Stelle non è che si deve identificare con un candidato leghista, come non è proprio facile e immediato, però sarà questa la vera chiave del ballottaggio domenica. Grazie a Noto, ci sentiamo tra un minuto. Eccoci qui tornati in diretta dopo tutta questa bella pubblicità, 8:37 primi 8 secondi. Vi dico subito, secondo me l'articolo che più mi ha colpito ha provocato mal di stomaco questa mattina, quindi Oscar Goss, vediamo a chi attribuirlo immediatamente. Dico mal di stomaco, non perché è ben scritto. No, lo troviamo, va bene, facciamo a meno della musichetta, ma comunque l'articolo è quello che ha scritto Giuseppe Salvaggiulo sulla Stampa. Ed è un articolo in cui Sì. Giuseppe Salvaggiulo della Stampa, perché questo articolo che ha scritto a pagina 13 della Stampa di oggi, se non siete lettore della Stampa, vale la pena comprarlo per leggerlo, per capire come siamo rimessi in questo paese sulla giustizia, perché un processo importantissimo contro l'Andrangheta calabrese nato nel 2010 da vantaggio della procura di Reggio Calabria, che per una volta si svolge nei tempi giusti, in fretta, eccetera eccetera, con la corte d'assise che combina 42 condanne per 300 anni di carcere per, stiamo parlando di cosche ndranghetiste con accusate di guerra di mafia, con 52 omicidi e 34 tentati, per capirci. I mafiosi adesso tornano liberi perché il giudice non rispetta i termini per depositare la sentenza, e quindi liberi. Vabbè, cari ascoltatori, vediamo alcuni di voi come rispondono alla domanda che ci siamo posti all'inizio e che abbiamo poi visto essere decisiva anche nel turno di ballottaggio a Bologna, cioè dove magari non ci sono candidati dei 5 Stelle al ballottaggio, vedere l'elettorato come si comporta. Ora noi siamo in par condicio, quindi io non devo dichiarare, ed è ovvio, mie simpatie o comportamenti di voto, ma devo invitare anche chi interviene a darci la sua opinione senza che sia un invito al voto, quello che volete voi. Però questo non ci può impedire la legge della par condicio di fare un ragionamento per capire, no? Chi non ha un candidato su cui ha votato al primo turno, che valutazioni fa? Ecco, almeno questo possiamo farlo? Sì, credo che sì, possiamo farlo. Sentiamo Fabio da Milano. Fabio, prego. Buongiorno Oscar. Buongiorno. Senta, io vorrei condividere con lei, diciamo, la mia difficoltà di essere milanese e, diciamo, reduce dalla giunta Pisapia. Pisapia, che era un uomo che comunque riusciva ad intercettare il gradimento di, diciamo, a livello trasversale della società, e a Milano sia io che molte persone con cui mi confronto vivono la difficoltà di scegliere uno dei due candidati che vengono ritenuti sostanzialmente sovrapponibili e analoghi, e quindi ci troviamo in una condizione di grande patimento, di grande tribolazione, perché a prescindere magari dal fatto che l'uno o l'altro siano un pochino più vicini in ragione delle forze politiche che li appoggiano al proprio percorso personale, alla propria inclinazione politica liberale piuttosto che progressista, io personalmente vivo una grande difficoltà e quindi mi trovo... Ma io lo capisco, perché effettivamente non si può affatto dire, per valutazione mia, me ne assumo la responsabilità, che la sindacatura di Sala sia in continuità con il movimento arancione trasversale a sinistra, non solo a sinistra, anche dal punto di vista civico, eccetera, eccetera, che era stata la forza e la caratteristica della sindacatura Pisapia, di cui parla anche il nostro ascoltatore. Quindi io capisco che è difficoltà, è inutile dirci no. Capisco anche per questo che i partiti poi ci pensino due volte prima di dire ci apparentiamo e votiamo, tanto non sono loro a decidere, non sono i leader a decidere poi come votano gli elettori che al primo turno hanno scelto un candidato che si riconosce in quel partito. Come la pensa Francesco da Pordenone? Prego Francesco. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, la cosa è abbastanza semplice. Io parlo da attivista del Movimento 5 Stelle da oltre 10 anni. Ebbene, nessuno in questo periodo mi ha indicato chi votare o quale candidato al ballottaggio in cui non c'è il Movimento 5 Stelle votare. E questo è l'atteggiamento che il Movimento 5 Stelle ha normalmente. Il problema è che si cerca di attribuire al Movimento 5 Stelle una responsabilità che non ha. Vale a dire, durante il ballottaggio, se il 2%, il 5% delle persone che non hanno votato al primo turno voterà, questo andrà completamente a inficiare ogni statistica e ovviamente il Movimento 5 Stelle non sarà responsabile di questo. Cioè, certo. Noi facciamo, ognuno di noi voterà come vorrà, se vorrà votare, se no non voterà nemmeno. Cioè, c'è una dose enorme, una quantità enorme di cittadini che non ha votato il primo turno, che se vota potrà cambiare completamente i giochi. Esatto, grazie. Aspetta, Francesco, ci stai regalando un'altra osservazione che è poco all'attenzione. In alcune città, per esempio sta capitando a Milano, sta capitando a Torino, mi dicono, c'è una richiesta di certificati per il ballottaggio che è inaspettata ed è significativamente molto più elevata che in altre circostanze. Di solito al ballottaggio c'è più difficoltà rispetto al primo turno a partecipare, proprio perché i candidati sono solo due. Quindi sta anche capitando quello che ci dice Francesco da Pordenone. Sentiamo Marco da Milano, la sua opinione. Marco, prego. Buongiorno. Senta, io volevo segnalare il mio disaccordo con queste interpretazioni politiche delle elezioni comunali. Io per esempio sono potenzialmente un elettore di centrosinistra, sì, e però a Milano voterei volentieri il candidato di centrodestra, perché mi sembra migliore rispetto a Sala. Ecco, il fatto che il mio voto venga utilizzato per fare se Renzi sì, Renzi no, queste esattamente, questa cosa qui dà molto fastidio, perché non si può semplicemente dire che il si sceglie il candidato e i programmi e la squadra che lui ha scelto, invece che politicizzare così tanto le elezioni comunali? Allora, ragionamento fondato sul buon senso, quello di Marco, però in Italia è politicizzato tutto. Dannatamente tutto, cioè dovessi dire, è ovvio che il rilievo politico della tornata amministrativa è spropositato, però le ho appena letto quello che Repubblica scrive a proposito di come D'Alema ragiona nel suo partito. Ci dirà che non è vero D'Alema, che i giornalisti inventano tutto, però lì ci sono virgolettati, ci sono incontri politici avvenuti eccetera eccetera, conosco Goffredo De Marchis non inventa questa cosa qua, e quindi purtroppo sono i politici stessi italiani che caricano di aspettative. Per esempio domani c'è il Notasi Day voluto dal Presidente del Consiglio per dare segno politico al secondo turno del ballottaggio, e adesso è il risultato che il partito dove ci sono i ballottaggi vive questa cosa come una cosa messa lì dal governo, e i candidati al ballottaggio non ci vogliono neanche andare, lui stesso non sa se metterci la faccia. Questo ti dà l'idea, caro ascoltatore, di quanta la politicizzazione sia figlia della politica italiana. Dopodiché, se lei mi chiede un'opinione secca, ma conta più questo o altro, la mia opinione è, guardi, che dovremmo occuparci molto di più dei disastri in arrivo la settimana prossima, che sono il voto su Brexit, che cambia la storia europea se esce l'Unione, il Regno Unito, allora cambia molto più di quanto noi non crediamo in Italia, il 26 quando si vota in Spagna, dove può vincere Podemos, e cambia il segno politico a quel punto nell'Europa Latina, sull'austerità. Ecco, quelle robe lì hanno un impatto, nella mia modestissima opinione, X volte superiore a quello dei sindaci italiani, che devono occuparsi delle città, che hanno problemi gravissimi, serissimi, ma che non cambiano la storia politica, secondo me, né italiana né europea, come invece quei due avvenimenti in pochi giorni la cambiano davvero. Allora, a proposito di voti dal basso, io sono molto favorevole ai modelli svizzeri, cioè al referendum decisionale anche su materia che la Costituzione ci impedisce, cioè la Costituzione ci impedisce costringendoci dei cretini che hanno bisogno della politica papà paternalista, e quindi ci impedisce per esempio dei referendum abrogativi in materia tributaria di trattati internazionali. Per questo non abbiamo mai fatto un referendum sull'Europa come fanno i britannici, per questo non possiamo fare referendum in cui decidere o meno di abrogare norme in cui si spende o si chiedono tasse a noi. Ci sono posti d'Italia invece dove gli istituti locali lo consentono. Che cosa è accaduto? È accaduto che, sorpresa, per un referendum fatto in Alto Adige, i cittadini che hanno partecipato al referendum, a quel punto facendo scattare il quorum per il risultato legittimo deve essere superiore al 40% della partecipazione, hanno votato in più del 40%, e a quel punto al 70% hanno detto no, noi non vogliamo che il denaro pubblico venga dato all'aeroporto di Bolzano. Sorpresa che io utilizzo non solo per raccontare sul fatto che bisogna far votare la gente e basta con diffidare della presunta emotività dell'elettorato sui soldi, visto che poi i soldi li tirano fuori loro, gli elettori e i contribuenti. Secondo, pensate invece al ragionamento del tutto asimmetrico con cui non vogliono far fare il referendum e non vogliono che si decida per referendum sulle Olimpiadi 2024 a Roma. Viva invece l'Alto Adige che fa fare il referendum su una vicenda come volete i soldi pubblici per l'aeroporto di Bolzano, e per questo ci siamo tornati sopra. Non è affatto vero che è una vicenda che interessa solo gli altoatesini, è una questione di metodi della democrazia, e per parlarne e per spiegarvi meglio che cosa è successo, qual è stato l'impatto, abbiamo il segretario del PD dell'Alto Adige, ex sindaco di Laives, Liliana Di Fede. Grazie di essere con noi, buongiorno Liliana. Buongiorno. Allora, lei è rimasta sorpresa del risultato della consultazione referendaria? Non mi aspettavo un risultato così schiacciante, no, non me l'aspettavo, è stata una bellissima sorpresa per me. Ah, ma quindi nel dire bellissima sorpresa è chiaro che le ha detto non solo una bellissima sorpresa democratica, ma anche per la scelta che è stata fatta dai cittadini. Sì, assolutamente sì. Beh, innanzitutto avevamo in molti qualche timore per quel che riguarda l'affluenza, che invece è arrivata al 46%, quindi ben sopra il quorum, no? Il limite del quorum. E questa è stata, e dappertutto, in tutti i comuni dell'Alto Adige, praticamente in tutti i comuni dell'Alto Adige, quasi, non in tutti, si è superato il quorum. E la seconda sorpresa, questa veramente assolutamente inaspettata, è stato questo successo dei no. Anch'io ero schierata per il no a titolo personale, quindi per una scelta mia di coscienza. No, perché in realtà la maggioranza che governa, quindi che vede anche soprattutto governare con gli autonomisti, era per, sì, dando per scontato, è un'opera che serve per l'attrattività e per la crescita economica di questa parte d'Italia, è giusto, noi abbiamo le risorse da investire, che ce le investiamo, eccetera, eccetera. La gente invece non si è fatta convincere molto dall'idea che bisogna mettere un pacco di milioni in quest'opera, anche perché dice no, ma i numeri non sono tali da far pensare che sia questo aeroporto sostenibile da solo, ci mettiamo in una serie di anni in cui ci vorranno sempre più contributi pubblici. Insomma, la gente ha fatto bene di conto, mi sbaglio? Ha fatto due, io penso sia stato anche qualcosa altro. In realtà il referendum riguardava l'ampliamento, sì, dell'aeroporto e anche il sostegno pubblico all'aeroporto, quindi io credo che ha influito anche nei comuni limitrofi. L'aeroporto sorge nella zona più abitata di tutto l'Alto Adige, nella conca di Bolzano, quindi una zona veramente più abitata. In cui la densità antropica è già molto elevata. Sì, sì, infatti. Quindi un quarto della popolazione dell'Alto Adige avrebbe subito un impatto forte da questa struttura. Ma credo che però i risultati ottenuti anche nelle zone più distanti mi portano a pensare che sia stata quasi una scelta, che l'aeroporto sia diventato, come dire, l'indicatore di una volontà dei cittadini dell'Alto Adige e che la scelta fosse fra economia importantissima e turismo. Noi viviamo di turismo, certo, siamo assolutamente favorevoli, ma anche al turismo, ma che tipo di turismo? Quindi con un accento molto forte all'ambiente, no? All'importanza di garantire la dignità, la tranquillità nella vita dei cittadini. Ecco, così mi è venuto in mente subito dopo il risultato del referendum, mi è venuto in mente Alexander Langer, certo, che faceva l'elogio della lentezza, no? come modello di sviluppo. Quindi penso che si sia trattato qualcosa che va al di là dell'opinione sulla singola opera. No, no, bene, certo, ha fatto la giunta provinciale ad avviare questo referendum e questo ci tengo a sottolineare, sono grata al presidente Comparsi, sì, che oggi infatti non poteva, perché noi lo sentiamo spesso, perché lui non si nega, diciamo, ai nostri microfoni, sì. Però io apprezzo anche Liliana Fede, che lei come segretario del PD si è esposta anche su una linea che era personale di dissenso, che è stata premiata, perché lei ha saputo vedere ciò che nella testa della gente, anche nel portafoglio, perché certo che contava anche la scelta come contribuenti, però che nella testa, nel cuore della gente c'era. Allora, la mia opinione, e ripeto, non solo ringrazio Liliana Di Fede per la sua testimonianza, ma perché si è disallineata rispetto a quello che diceva il suo stesso partito nella maggioranza, perché c'è bisogno di gente così in politica, se sente le cose le deve dire a prescindere, ma perché la mia opinione è che il sistema referendum bolzano, il suo esito, il no al denaro pubblico per l'ampliamento dell'aeroporto, è uno di buon senso. Facciamolo anche per le Olimpiadi. Cari ascoltatori, diffidate di chi vi dice... Lo so, anche la Confindustria di Roma, un'industria, vuole le Olimpiadi 2024, però lasciatevi servire, faremo altre trasmissioni, perché l'invito è non continuare a rompere le scatole, però non solo studi comparati di Olimpiadi delle precedenti edizioni e dei sovraccosti rispetto alle previsioni alla mano, ma alla luce di quello che dice la stima dei costi delle Olimpiadi 2024 per Roma, che gira in questi giorni sui giornali, quella fatta da CES di Tor Vergata, dove si dice che in tutto costerebbero 3,2 miliardi, quella stima non sta in piedi, non è compatibile né con i costi precedenti realizzati in Italia per Italia 90, per i mondiali di nuoto, dove c'è stata una moltiplicazione tra i costi veri e quelli predetti, e non sta in piedi questa cosa qui. Utilizziamo lo stesso metodo che ha visto i cittadini altoatesini dire no all'aeroporto. Ragionandoci, no? Perché figurati se io sono pregiudiziale contro le opere pubbliche o contro le grandi manifestazioni. Un paese che non cresce ne ha bisogno, però deve dire la verità alla gente su quanto costa. Non deve dire che costano una frazione e poi si scopre che costano mille volte di più perché dietro ci sono interessi innominabili, come a Roma abbiamo già visto, sia per Italia 90, sia abbiamo visto per il Mondiale di Nuoto. Quindi, perdonatemi, non è una questione di essere anti-italiani, è una questione di volere le idee chiare, di fare decidere la gente. Io mi fido della gente su queste materie, a differenza di quanto invece non si fidino coloro che sono gli organizzatori di questa stessa manifestazione. Come lo spirito olimpico è che avete deciso tra voi? Non mi pare, lo so, non piace molto al mio editore quello che sto dicendo, però credo un mio dovere come giornalista, amico dei contribuenti, dirlo comunque. Allora sentiamo ancora qualche ascoltatore. Carla da Milano, prego Carla. Sì, buongiorno Oscar, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo intervenire, mi ha colpito quello che ha detto un ascoltatore qualche tempo fa sulle elezioni di Milano, sì, che è abbastanza, diciamo, è un elettore della di Pisapia, diciamo, della precedente, del precedente Giunta, sindaco, sì. Ma adesso, visto che ha una certa lieve preferenza per Parisi, i due candidati in effetti sono abbastanza simili. E però dice anche: io non vorrei che la mia scelta fosse letta come una cosa nazionale, per carità. Ecco, no, no, ma infatti, ma il punto è che io terrei molto, starei proprio su Milano, dicendo che la giunta Pisapia ha lavorato molto bene, secondo me, vabbè, si poteva fare di più, ma è sempre così. Il problema è, non è tanto Parisi, che devo dire che anche a me fa, diciamo, una discreta impressione positiva. Ma è chi gli sta dietro? È questo che io capisco, capisco. Allora, Francesco da Roma voleva dirci: diamo un'opportunità del voto per referendum olimpiadi anche a Roma. L'ho detto anche per conto tuo. E nel frattempo finiamo la trasmissione pensando al nostro Alessandro Milan. Torna, sta casa spietta te. Continuate con Radio 24 e appuntamento anche alla versione di Oscar con me alle 4:30, ma continuate con Radio 24.